nella radio. Mi piaceva, ripeto, che non sono nella condizione, per una questione cosa di burocratica, di poterla acquistare, però la prenderò appena posso. Appena si farà quello che si deve farà, si può mettere a disposizione anche qualcosa del genere, va via i portatili quando vieni qua, si può prendere. Ne ho tantissimi, ho fatto proprio uno scaffaletto apposta per mettere, mi sto girando, per mettere gli occhiali apposta, proprio per mettere tutte le VHF con i VHF, le U con le U e così via. Ho ancora il rotore con il rotor box qua giù, sto aspettando l'autoscala, poi lo vedrai, un bel rotolino per far girare la direttiva. Possibilità, perché l'autoscala è impegnata, devo fare un lavoro molto molto particolare, però appena ho la possibilità che mi danno l'autoscala faccio anche quello, ho già terminato anche la parte delle direttive, anche se poca attività sto facendo in questo periodo perché sono impegnatissimo al lavoro, però vediamo poi con calma che cosa riusciamo a fare. Un attimo. Ehi, allora, ti aspetto, poi chiudo. Scusami, ma devo andare, sembra assurdo, all'università per fare un lavoro. Ora tu te vai, anche sto chiudendo, ci aggiorniamo domani anche. Grazie del cortese QSO e ci aggiorniamo domani. Ciao, buonanotte. Ho ricambiato, grazie a te del QSO, buon QRT, buon 144, ci aggiorniamo alle prossime. Ciao. Ma poi domani faremo la prova con quello piccolo, ciao. Beh, me lo guardo adesso, gli do uno sguardo mentre vado lì e intanto ce l'ho sul telefono, lo voglio vedere, nel caso me lo prendo subito. Ma una chiamata, guarda, una controllatina, poi se lo vuoi vedere dal vivo, vieni qua, ciao. Ciao, ciao Rotz. Antonio Valchè, tanto lo sapevo che risveglio. Hai ascoltato tutto? So tutto. Ciao, domani ci aggiorniamo. Domani la caffina, ti aspetto, portami a Tullio, ciao. Ecco, ciao. E ciao.